falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. La storia del Novecento è stata segnata e costellata dal passaggio di grandi donne, e soprattutto agli inizi del secolo scorso il ruolo della donna era abbastanza predefinito: moglie, madre, tutto al più amante. Insomma, le donne che hanno saputo cambiare la storia avevano un percorso in salita, e mai come quello di Amelia Earhart era un percorso in salita, perché parliamo di una delle pioniere dell'aviazione mondiale. Era una donna molto coraggiosa, audace, non ha mai avuto paura di volare, anzi ha sempre avuto coraggio da vendere. Questa è una delle sue frasi più celebri. Il coraggio è il prezzo che la vita esige per assicurare la pace. L'anima che non lo sa non conosce sollievo dalle piccole cose, conosce solo la livida solitudine della paura. Amelia nasce in un caldo giorno di fine luglio del 1897 in Kansas. Da bambina è una tipa sveglia. A 7 anni suo padre, che lavora nelle ferrovie, le regala un mappamondo e lei sta ore e ore a giocare con quella palla tonda a forma di terra e comincia a fantasticare su tutti i paesi che da grande vorrebbe visitare. Un giorno, mentre gioca in un prato vicino a casa, le passa sopra un aereo biposto. Qualcosa nella sua mente si accende come l'incanto. Quel piccolo aereo mi fece venire voglia di sorvolare le grandi praterie del Kansas. Mio padre aveva la passione per i viaggi, io l'ho ereditata da lui. Volare mi permette di muovermi in 3 dimensioni. A chi può piacere una vita prigioniera della sicurezza? Eh sì, la nostra Amelia è una donna molto coraggiosa, una ragazza molto coraggiosa che non ha paura di volare. Da ragazza non ha le idee chiare, però, perché ama il cielo, le nuvole, però non pensa di fare diventare l'aviazione il suo lavoro. Intanto pratica sport, è una ragazza atletica. Quando vede alcuni reduci della Prima Guerra Mondiale decide di frequentare corsi per infermiera, presta poi servizio in un ospedale militare a Toronto, in Canada. Così nel 1920, quando ha solo 23 anni, sale per la prima volta a bordo di un biplano e al prezzo di $1 vola per 10 minuti sopra Los Angeles, e questo è il suo primo colpo d'ala. Rimane folgorata da questa esperienza e capisce che vuole imparare a volare e comincia a frequentare lezioni di volo da Anita Snook, quindi un'altra donna che in qualche modo faceva lavori da uomini. Intanto lei fa dei lavoretti per pagarsi le lezioni, che sono costose. Poi comincia a sognare in grande, lavora sodo per coronare un altro sogno: acquistare un aereo. Niente male. L'anno dopo, grazie all'aiuto della madre che l'ha sempre sostenuta, compra il suo primo biplano a 2 posti, usato. È un biplano giallo canarino. The wind is blowing harder now, blowing dust into my eyes. The dust settles on my skin, making a crust I cannot move. And I'm hovering like a fly, waiting for the windshield on the freeway. Alla fine degli anni 20 incontra George Putnam, che è un magnate dell'informazione, è quello che poi diventerà suo marito. Lui è quel signore che nell'aprile 28 le propone la traversata sull'Oceano Atlantico, che la renderà famosa e che le cambierà la vita, perché prima di lei, solo un anno prima, c'era riuscito un uomo, il celeberrimo Lindbergh, Charles Lindbergh, che era in solitaria. Adesso toccava una donna, ma se lei pensava di stare davanti alla cloche, si ritroverà comandante donna, sì, ma in fondo alla carlinga. Miss Earhart? Mr. Putnam? Si accomodi. Mi dicono che vorrebbe sorvolare l'Oceano Atlantico. Sì, è vero. Perché vuole pilotare un aereo? Perché? Perché vuole pilotare un aereo. Perché un uomo va a cavallo? Perché ha voglia di farlo, ritengo. 3 donne ci hanno già provato e sono morte. e altre due hanno rischiato la vita. Se lei riuscisse nell'impresa, sarebbe la prima. Il che sarebbe piuttosto eccitante per entrambi, suppongo. L'aereo è stato acquistato dall'ammiraglio Bird da Amy Guest, una ricca signora dell'alta società, che ha chiesto di trovare una aviatrice americana, ben istruita, raffinata e fisicamente attraente, se possibile. E per quale motivo? Perché vuole che il mondo presti attenzione e alle belle donne si dà più attenzione. Sarà stipulato un contratto per la storia dell'aviatrice con il New York Times e verrà anche pubblicato un libro con il nome della ragazza. Ma tutti i proventi andranno a Amy Guest. Quindi vi serve una donna pilota? Non nutra vane speranze. Il celeberrimo Wilmer Stultz piloterà l'aereo. La donna sarà semplicemente a scopo ornamentale. Questi dialoghi sono tratti dal film Amelia del regista Mira Nair. Siamo arrivati al 17 giugno 1928. Dopo diversi rinvii dovuti alle brutte condizioni del tempo, Amelia Earhart, il pilota Stultz, il copilota meccanico Gordon a bordo di un Fokker F7 chiamato Friendship, amicizia, e finalmente prendono il volo. Partono da Tripassey, ancora in Canada. Faccia partire il cronometro. Forza! Forza! Speriamo di farcela! Ci siamo. Ce l'abbiamo fatta! Siamo in mano! Ottimo lavoro! Grazie, comandante! Siamo nel giugno del 1928 e un aereo, un Fokker che viene chiamato Friendship, sta salpando dal Canada. Friendship vuol dire amicizia e in effetti c'erano a bordo tre amici, un meccanico Gordon, un pilota Stultz e una navigatrice donna, la protagonista della nostra storia, Amelia Earhart. Sono riusciti a decollare e hanno come traguardo l'Irlanda. Amelia ha solo un ruolo fittizio di comandante, in realtà sta facendo la passeggera sul retro e questa sarà un'esperienza che la segnerà per sempre. Ore e ore di volo, poco o niente da mangiare, molta adrenalina, un'ondata di emozioni. La nostra attraversata atlantica fu letteralmente un viaggio tra le nuvole. E a proposito di nuvole, si dice che siano foderate d'argento, ma è pura finzione. Il loro interno è piuttosto di un grigiore umido e vischioso, tristemente impraticabile, come tutti lo immaginiamo. Eppure, alcuni viaggiatori dell'aria sanno che al di sopra si trova tutto un mondo diverso, unico. Oltre a quello spessore impenetrabile, il sole riverbera su un mare di morbidezza più accecante della neve. Poi, quando scende verso l'orizzonte, il manto di nubi si accende a perdita d'occhio, di quei colori che sulla terra compaiono al tramonto. Naturalmente a un'altitudine di qualche migliaio di piedi, il sole si vede più a lungo. Nella traversata non mancano gli imprevisti. A un certo punto i piloti perdono il segnale radio, ma poi vedono terra, tirano un sospiro di sollievo, scendono a livello del mare. Quando fanno l'ammaraggio in molti si fermano a vedere l'arrivo del team e la gente è molto emozionata e nel momento in cui Amelia scende dalla barca che è andata a prenderli, tocca finalmente terra, scatta un lungo applauso e un canto popolare. Benvenuti. Grazie. Una curiosità, è una tradizione irlandese salutare con una canzone. Non saprei dirle, qui siamo in Galles. dare dell'irlandese a un gallese è un po' come dare del livornese a un pisano, ma comunque sono arrivati, non è l'Irlanda, poco importa. Quando lei arriva, dopo 21 ore di volo, gli onori sono quasi tutti per lei. Perfino il 30° presidente americano Coolidge le invia con un cablogramma le sue personali congratulazioni. La notizia del loro arrivo fa il giro del mondo. Le donne cominciano a impazzire per Amelia. I fotografi e i reporter la seguono ovunque. Had it my way. I've got my feet in the clouds. Got my head on the ground. Appena può, intanto gira per le scuole, per le associazioni femminili, perché lei è diventata un modello per tutte le donne e le invita a seguire i loro sogni. Se vogliono fare un lavoro maschile, che lo facciano, perché l'emozione di inseguirli quei sogni è troppo grande per non viverla. Che cosa ha provato quando ha sorvolato l'oceano? Era spaventata. Quando dall'aereo ho guardato di sotto, mi è sembrato quasi di vedere il cielo. Come se cielo e oceano fossero la stessa cosa. Una sensazione più forte di quando volo in alto verso il sole. Mi sono sentita trasportata in un posto bellissimo, semplice, sicuro, dove ogni cosa è comprensibile. Così Amelia diventa una delle poche ma molto significative donne che scuotono la coscienza di tutte le altre donne nei primi 50 anni del Novecento. Diventa un simbolo. George Putnam la segue, le organizza pubblicità, tour promozionali. Lei crea una collezione di moda per pilote in gonnella, una linea di valigia che portano il suo nome, e anche la nascente industria dell'aviazione civile vede la possibilità di sfruttarne l'immagine per attirare pubblico femminile. Diventa un brand, insomma. Lei se la cava bene con le interviste e vuole convincere le donne che possono fare tutto quello che fanno gli uomini. Lei ne è un esempio. Amelia Earhart, l'unica donna al mondo ad aver sorvolato l'Atlantico, non riesce proprio a tenere i piedi per terra. L'editore George Putnam le ha commissionato un libro sulle sue avventure ad alta quota. Il libro si intitola Felice di volare, ricordi della mia vita in volo e di altre aviatrici, in Italia edito da Elliot. Ne parliamo più tardi. Di volare, questo è il titolo del libro che scrive la nostra protagonista Amelia Earhart nel 1932. L'aviatrice che ha fatto sognare migliaia di donne racconta la nascita del suo interesse per il volo e tutte le avventure che la portarono a ottenere ben 16 record mondiali. Nel 1920 era molto anomalo che una donna pilotasse un aereo e avevo voluto mantenere un aspetto il più normale possibile proprio per evitare le solite critiche alle mie attività. La scuola di volo fu per me piuttosto lunga, soprattutto perché senza soldi non si volava e senza lavorare mancavano i soldi per il volo. Quando finalmente arrivò il momento di uscire in solitaria, grazie all'addestramento ricevuto, non provai alcun nervosismo. Salii fino a 5.000 piedi, mi divertii un po' e tornai giù. 1929, Amelia organizza un'esibizione aerea per sole donne da Los Angeles a Cleveland. Lei continua a superare record femminili a bordo del suo aereo e intanto la sua relazione con l'editore Putnam prosegue a gonfie vele. Sposami. Cosa? Voglio che mi sposi. Io non sono fatta per il matrimonio, non voglio, George. Non capisci? Io e te possiamo decollare verso la vita felice. Caro George, soltanto io posso rendere felice e piena la mia vita. Da soli la vita non può essere felice. Lo è Solo se è condivisa. Fammela condividere con te. Fammi provare a darti tutto quello che desideri. Insomma, questa proposta lievemente sdolcinata ha il volto di Richard Gere nel film di cui abbiamo già parlato. Intanto Amelia mette le cose in chiaro, non vuole una gabbia, non vuole limitazioni, restrizioni alla sua libertà, nessun codice di fedeltà, e lei chiede in cambio una promessa: se non saremo felici insieme mi darai la possibilità di andarmene. E George evidentemente è molto innamorato, subisce e accetta tutte queste condizioni, e così i due si sposano il 7 febbraio del 31. Intanto lei non si ferma, fonda l'associazione delle aviatrici donne, sostiene tutte le donne che lavorano in questo campo. All'inizio del 32 si sente pronta per quello che nessun altro pilota a parte Lindbergh aveva compiuto, cioè la trasvolata in solitaria. Amelia Earhart dimostra di avere grandi abilità di pilota e spirito d'avventura. E ora si prepara ad affrontare una nuova sfida sorvolando l'Atlantico per la seconda volta. Non più come passeggero. Questa volta Miss Earhart volerà in solitaria. E così Amelia, che viene soprannominata Lady Lindy in onore di Lindbergh, completa l'impresa il 21 maggio del 32 a un Lockheed Vega e impiega 14 ore e 56 minuti per volare da Terranova a Londonderry, questa volta veramente nell'Irlanda del Nord. E questa è la sua vera voce dopo la trasvolata sull'Oceano Atlantico. Credo di aver avvistato terra per la prima volta più o meno attorno al centro dell'Irlanda. Decisi di atterrare sul migliore pascolo a disposizione e scesi senza problemi, rullando fino al portone d'ingresso del cottage di un contadino che è rimasto un po' sorpreso. Il ritorno a New York è trionfale. Il presidente Hoover le conferisce la speciale medaglia d'oro per conto della National Geographic Society. È il momento di maggior successo, è un altro grande colpo d'ala nella sua carriera. Viene nominata donna dell'anno. Lei però comincia a sentire il peso delle conferenze, delle pubblicità, dei servizi fotografici, degli incontri che si svolgono per raccogliere soldi, e soldi che servono per finanziare altre imprese, è vero, però in effetti lei sta diventando un brand, una donna d'affari, una donna di promozione. Intanto il rapporto con il marito George, con il povero George, si incrina, forse per fortuna di George, e lei inizia a interessarsi a un altro uomo, l'atleta e pilota Jean Vidal, con cui intraprende una tormentata e appassionata storia d'amore. La era De Vidal danno vita a una compagnia aerea per trasporto passeggeri, perché gli aerei sono più veloci dei treni e sono più sicuri delle auto, e questo è quello che vuole trasmettere Amelia alla gente. Il mio lavoro consisteva nell'invogliare le donne all'acquisto di biglietti aerei, sia parlandone che esibendo i dati relativi al trattamento dei passeggeri, con presentazioni che risultassero appetibili alle signore. Giustamente o ingiustamente, gli agenti di vendita accusavano le donne di essere la principale causa di resistenza, sostenendo che non comprando il biglietto aereo per sé, di fatto precludevano il viaggio anche alle famiglie. Con il rapido sviluppo dell'aviazione, entrò in gioco un nuovo atteggiamento dei viaggiatori. Si iniziò a considerare le compagnie aeree una necessità, come le aziende ferroviarie e quelle di pullman, divenendo via via più evidente la necessità di un servizio che garantisse maggiore frequenza e prezzi più bassi. Nel 1937, quando ha quasi 40 anni, la Earhart decide che vuole essere la prima donna a fare il giro del mondo in aereo. Il malcapitato e succube marito continua a sostenerla fino in fondo. Lei lascia definitivamente Vidal e si getta nell'impresa. Amelia Earhart lascia Oakland in direzione di Honolulu. Sta per dare inizio alla più pericolosa impresa aviatoria mai tentata: sorvolare l'intera circonferenza terrestre. Il 20 marzo 1937 la Earhart e il suo navigatore Fred Noonan si fanno fotografare a Honolulu, sono pronti per partire carichi di carburante, però sulla pista il carrello si rompe, il tentativo fallisce e Amelia si rimette in moto subito, riparano l'aereo, però lei intanto ha un presentimento. Ho il presentimento di avere a disposizione solo un altro volo buono, spero sia il prossimo. 1 giugno, compleanno della nostra autrice Francesca Del Rosso, ma qua siamo in un altro anno. Siamo nel 1937. Lei, sempre insieme a Fred Noonan, parte da Miami, Florida, invertendo la rotta, facendo risultare così l'Oceano Pacifico al termine del giro del globo. La trasvolata della Electra, e questo è il nome dell'aereo, sarà di ben 29.000 miglia. Un bacio al povero marito George, la promessa di tornare a casa come sempre, una lettera in busta chiusa da leggere solo in caso di disgrazia, poi l'aereo di Amelia decolla e scompare nelle nuvole. Sud America, Africa, India, Amelia vede paesi sconosciuti, paesaggi meravigliosi, esattamente come si prefiggeva da ragazzina. Lei ha coronato il suo sogno. Quando ripartono per la Nuova Guinea, sul taccuino di viaggio saranno segnate 22.000 miglia, ancora 7.000 e l'impresa sarà fatta. A questo punto tutto quello che è superfluo nell'aereo viene rimosso per far posto a più carburante possibile. D'altra parte lei è molto brava nel rimuovere le cose che non le servono. Dopo settimane di perfetta navigazione attorno al mondo, l'aereo e il suo navigatore devono affrontare il passaggio più pericoloso. Devono fare rifornimento presso la minuscola isola Howland. È una isoletta piccolissima, senza alture, difficile da vedere in mezzo all'oceano, ma Noonan è sereno, a lui servono solo le mappe. In realtà iniziano ad avere delle difficoltà perché il cielo è nuvoloso, il problema è che proprio le mappe a disposizione degli aviatori non sembrano le più accurate possibili in quei tempi, così per quanto si avvicinino all'isola non riescono a entrare in contatto radio con la guardia costiera Aitasca, che li aspetta lì. E così all'alba Amelia Earhart chiama insistentemente alla radio. Earhart chiama Aitasca. Noi vi riceviamo, dateci la vostra esatta posizione. Aitasca, non riusciamo a sentirvi. Dovremmo essere sopra di voi, ma non riusciamo a vedervi. Il carburante si sta esaurendo. Non siamo riusciti a raggiungervi via radio. Stiamo volando a 1000 piedi. Qui parla Aitasca. Ricevete la trasmissione? Qui Earhart. Chiama Aitasca. Ricevete? Non vi vediamo. Le flebili trasmissioni provenienti dal volo di Amelia e Fred si interrompono il 2 luglio 1937. Amelia è sull'oceano, non vede l'isola, non vede la nave, non riceve i segnali radio di Aitasca. La notizia della scomparsa di Amelia e Fred fa presto il giro del mondo. Il presidente Roosevelt autorizza imponenti e costose ricerche con l'impiego di navi, decine di aerei, fino al 18 luglio. Suo marito la cerca ancora, ma abbandona le speranze solo in ottobre. Le ipotesi sulle cause della scomparsa di Amelia sono state molte. C'è chi ha ipotizzato che lei e Noonan siano stati catturati dai giapponesi e giustiziati, altri che sia stata una spia catturata durante una missione, altri ancora che sia vissuta felicemente per anni in un atollo del Sud Pacifico, altri ancora che sia tornata negli Stati Uniti sotto copertura con una identità segreta. In realtà quando spariscono dei grandi personaggi, come dire, non ci si rassegna, ed è bello anche immaginare congetture fantasiose sul fatto che non siano morti veramente, ma è la pista più plausibile, ahimè, rimane quella dell'affogamento. Molti ricercatori ritengono che l'Electra, a corto di carburante, abbia tentato un ammaraggio di emergenza e che poi la Earhart e Noonan sarebbero annegati, facendo scomparire ogni traccia. Così la scomparsa di Amelia Earhart entra nella leggenda. Negli anni si susseguono ritrovamenti di relitti aerei, tracce di ossa, niente è sicuro. L'unica certezza che abbiamo è che Amelia è scomparsa nel 1937. Nella lettera, ricordate, quella che Amelia aveva consegnato al marito prima di partire, c'è una frase che sintetizza una vita. Sappi che sono consapevole dei rischi che corro, e se lo faccio è perché lo voglio. Le donne devono provare a fare ciò che fanno gli uomini, e quando falliscono, il loro insuccesso deve essere una sfida per gli altri. Così Amelia diventa un mito nella cultura anglosassone, tanto da ispirare libri, film come quello di cui stralci abbiamo sentito durante tutta la puntata, Amelia, diretto da Mira Nair, ma anche serie TV. Il suo mito è stato citato da Star Trek, Nel Corvo, Friends, Una Notte al Museo 2, commedia comica dove Amelia fa da coprotagonista insieme all'attore Ben Stiller. Cos'è questa baraonda, Asso? Senta, signora, può togliersi di mezzo? Signora, non sono una signora, io mi chiamo Amelia. Amelia Earhart, avrai sentito parlare di me? Ah, sì, credo che tu sia un pilota, se ricordo bene. Pilota? Io sono stata la prima donna a volare sull'Atlantico, la prima donna a ricevere la Flying Cross, la prima a sorvolare i 48 stati in volo in autogiro. Oggi avrai una carta mille miglia da far impallidire il più incallito frequent flyer e ora potresti essere così gentile da dirmi dove ci troviamo? Siamo in un museo, o meglio negli archivi di un museo, e io mi trovo in una situazione un po' pericolosa, quindi stammi alla larga, Lady Mille Miglia. Ah, capisci al volo. Come ti chiami, bella quilotto? Mi chiamo Larry Daly. Bene, Larry Daly. Se non l'hai capito, sono Amelia la temeraria, non evito il pericolo. Comincia a evitare le lance, Lady Mille Miglia. Allora muoviamoci. Ci si diverte ora. Storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala e mai definizione fu più appropriata, come nel caso della nostra protagonista Amelia Earhart, una donna della quale magari non era il caso di innamorarsi, ma una donna che ha segnato la storia della emancipazione femminile e anche del coraggio che stava nascendo in tante donne nel secolo scorso. Ciascuno di noi nella sua vita può rischiare di cadere, ma può anche darlo quel colpo d'ala che lo porta a volare in alto, magari a costo, a prezzo della vita, però lasciando un ricordo indelebile. Se voi volete mandarci dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina oppure venite a cercarmi e a cercarci sui nostri e sui miei social, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Che splendore, sembra fantascienza, il bimotore qui negli anni 30. Io ci rischio la mia vita senza viverla mai. Sorvolando sul Pacifico, trasvolando l'Atlantico, e vestita da viatrice io.